perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. I soldi sono una cosa seria, diciamolo anche a tutti i bambini che sono venuti oggi a trovarci, che stanno seguendo Investire Informati. Ecco, non abbiamo avuto il tempo di informarci su che classe, che età. Abbiamo una quinta elementare, Deborah. Bene, quindi abbiamo dei bambini pronti a vivere un anno entusiasmante. No, purtroppo non possiamo mostrarvelo neanche sulla nostra pagina Facebook, perché Due di Denari, lì, esatto. Perché sono lì che circondano Peter Bescapè, circondato dai fanciulli. Un'immagine, guarda, quasi un affresco sei, Peter, esatto, oggi con questa immagine. Michelangelesco. E quindi attenzione a quello che raccontiamo stamattina. I temi sono un po' complicati, però attenzione a dove mettete i vostri soldini, perché oggi parliamo anche del salvadanaio vostro e delle vostre famiglie. Quindi mi raccomando, chissà se vi ho convinti, che cosa ne dici? Non lo so, io so che adesso si fa l'inglese anche alle elementari, ecco. E quindi è utile. Perché oggi succede un po' questo, adesso io lo riassumo malamente, poi tu lo spieghi come bene, come se lo Deborah. Dovessi spiegare ad un bambino di 10-11 anni. Ecco, allora sarebbe così. Oggi è il giorno che passiamo dal quantitative easing al tapering. Bene. Siccome non hai capito niente, ascolta Due di Denaring, certo, che adesso ti spieghiamo. Esatto, noi qua si mette tutto al gerundio. Esattamente, no, a parte gli scherzi, è la giornata decisiva, perché è il caso di dirlo, non è una citazione oggi, di Alessandro Milan, è la giornata decisiva per vedere come cambierà la linea della Banca Centrale Europea. Per questi anni abbiamo avuto il quantitative easing, detto in parole molto povere, è uno stimolo per i consumi, cioè il denaro che costa poco e viene immesso per favorire i consumi. Adesso è il momento di ridurre un po' questo stimolo monetario e di lasciare che l'economia riprenda per conto suo. Andare verso la cosiddetta normalizzazione monetaria. Vedremo oggi Mario Draghi che tipo di annuncio farà questa riunione odierna della Banca Centrale Europea, del direttivo di Francoforte, appunto, è molto attesa dai mercati, tanto che sono piuttosto moderatamente positivi stamattina, ma da giorni diciamo hanno queste prestazioni abbastanza caute in attesa di questo appuntamento. E quindi se vogliamo spiegarlo anche ai bambini che sono venuti in visita, sono scappati di fronte al gerundio, al doppio inglese, però Due di Denaring. La sostanza è forse la vostra mancetta potrebbe incrementarsi a breve. Hai perché visto mai? Ecco. Se l'economia ripiglia il suo corso normale, magari anche la mancetta ne ha un beneficio. Esattamente. Tutto questo, signori, naturalmente lo potrete commentare con noi se vorrete così avere qualche indicazione di quello che potrebbe cambiare anche in ciò che avete investito, nel caso in cui gli annunci di Mario Draghi oggi siano di un certo impatto. Cosa succede ai vostri portafogli, ai vostri investimenti nel mercato azionario, obbligazionario, oppure se siete degli irriducibili della liquidità, potete comunque condividere con noi i vostri dubbi all'800 24 00 24 oppure scriverci al famoso numero 349 238 6666, SMS, ma anche WhatsApp, come preferite. E poi, se vi piace, perché no, una email, Due di Denari, è scritto a lettere Due di Denari, @radio24.it. Continuate a seguirci su Facebook. Hanno cambiato, credo, la posizione della telecamerina, perché di solito era di qua, adesso è di là. Accidenti. Insomma, tutta questa confusione per partire anche oggi, che è giovedì, con la nostra consueta rubrica di questo giorno della settimana. Investire informati. Eh sì, una rubrica fissa, il tormentone positivo per i nostri ascoltatori interessati a questi argomenti. Con noi oggi per orientarci in questi mercati che sicuramente sono molto sfidanti, Lucio De Gasperis, direttore generale Mediolanum Gestione Fondi. Buongiorno e benvenute, grazie. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Allora, caro Mauro, dal quantitative easing, dicevamo, al tapering, come hai ampiamente preannunciato, dobbiamo necessariamente oggi partire, no, dall'attualità, perché è l'attesa giornata in cui si riunisce la Banca Centrale Europea. Da settimane si fanno tutte le previsioni possibili sul graduale ritiro degli stimoli monetari. Allora, che cosa ha fatto Mario Draghi fino ad ora? Ha comprato Fino alla primavera scorsa, 80 miliardi di euro al mese di titoli di Stato, obbligazioni societarie, proprio per immettere liquidità in circolazione. Poi da aprile in avanti ha ridotto questa cifra. Un pochino, a 60 miliardi al mese. Oggi dovremo capire che cosa ha intenzione di fare. Ovviamente un ritiro totale non potrà preannunciarlo, perché altrimenti qua oggi ci sarà il fuggi-fuggi da tutti i mercati. Sarebbe, come dicevamo, uno shock però, troppo forte. Già abbiamo avuto altre testimonianze, non in Europa ma negli Stati Uniti, quando ci sono stati degli annunci di uscita drastica, i mercati hanno reagito male e quindi poi l'economia tutta ha reagito male. Quello che ci si attende, diciamo l'ipotesi più accreditata, quella pagata meno dagli scommettitori, se volete, è di un dimezzamento, cioè di andare a 30 miliardi al mese per, diciamo, fino a settembre, una visione fino a settembre. Perché fino a settembre? Perché così si vede un po' come la prendono i mercati, come la prendono le varie economie dell'euro. Certo. Si ripigliano, non si ripigliano, l'inflazione tiene, perché è vero che l'inflazione è risalita, però se la depuriamo dei fattori più volatili, la componente energetica in particolar modo, esattamente, non è poi così calda, diciamo così alta, e questo vuol dire che ancora il denaro circola poco, gli investimenti non sono soddisfacenti. Esatto, le banche hanno dei fior di uffici studi che simulano, prevedono, disegnano ogni scenario possibile. Dottor De Gasperis, il vostro che responso così sta emettendo in questi giorni? Un responso non è possibile, ma insomma, che tipo di direzioni sta annusando su quelle che potrebbe prendere Mario Draghi? Ma oggi Draghi avrà sicuramente una grande responsabilità, e diciamo che è uno dei giorni più importanti proprio della sua presidenza della Banca Centrale Europea. E sarà importante soprattutto il suo discorso, quella che noi in gergo chiamiamo la sua retorica, il modo di comunicare al mercato. Ed è molto importante proprio il tenore del suo discorso, e il mercato sostanzialmente già sconta, diciamo che il consensus del mercato in questo momento è che il programma di quantitative easing, o meglio il tapering, la riduzione del programma, sia appunto vada nella direzione di un dimezzamento, come si diceva, da 60 miliardi ad acquisti per 30 miliardi mensili da gennaio fino a settembre. È molto importante cosa dirà per il mese di settembre, cioè se il programma si esaurisce a settembre o se nelle sue parole si mantiene una qualche possibilità, una porta aperta per un'eventuale prosecuzione, certo, o ulteriore riduzione del programma. Anche perché stavo pensando, ha senso una prosecuzione? Che cosa fai di mezzi 30 miliardi? No, voglio dire, cioè, le cifre sono anche importanti quando parliamo di pacchetti di intervento di queste, certo, entità. Sarà importante conoscere quelli che sono i dati economici, l'andamento, esatto, dei dati economici, ma soprattutto Draghi nelle sedute precedenti ha fatto riferimento anche all'inflazione. L'inflazione è ancora distante dal suo target, dal target del 2%, ma soprattutto nei precedenti discorsi di Draghi si è fatto riferimento ad una possibile debolezza dell'inflazione nei prossimi mesi, uno cosiddetto effetto a V, quindi una discesa per una successiva risalita. Per cui effettivamente sarà importante monitorare, da un lato, quella che è la crescita economica all'interno dell'Eurozona, e dall'altro sarà importante andare a monitorare proprio l'andamento dell'inflazione. Per quanto concerne il Fondo Monetario Internazionale, che si è riunito appunto in questo mese, ha messo in risalto come sotto il profilo economico le cose stiano andando sicuramente meglio in Europa, e infatti le stime sono state riviste a rialzo in maniera significativa. Questo anche per l'Italia, peraltro, bisogna ricordare. Va messo in risalto. Basti pensare che in aprile le stime di crescita per quest'anno per il nostro paese erano dello 0,8%. Adesso sono state portate all'1,5%. È vero che la crescita, una delle crescite più basse all'interno dell'Eurozona, ma gli operatori finanziari, più che guardare il valore assoluto, guardano la variazione. E una variazione dallo 0,8 all'1,5 è quasi una variazione del 100%. Ed è il paese, l'Italia, che ha maggiormente sorpreso nella modifica delle stime. Certo. Senta, allora andiamo di nuovo a quello che potrà stabilire oggi Mario Draghi, alle modalità con cui lo comunicherà, ma soprattutto agli effetti che trasmetterà questa sua eventuale decisione ai mercati finanziari, perché poi le persone che ci ascoltano sono investite sul mercato azionario, obbligazionario, oppure detengono liquidità, oppure investono acquistando case, quindi fanno dei mutui, vanno a chiedere finanziamenti in banca, è ovvio che tutto ciò che arriva da Francoforte si dipana, poi si trasmette all'economia reale e anche a quella finanziaria. Che effetti ci dobbiamo aspettare? Sappiamo che generalmente il mercato anticipa sempre tutte le possibili decisioni e comunicazioni di ogni tipo, soprattutto quelle delle banche centrali. Quindi secondo lei, rispetto a quello che sarà stabilito oggi, il mercato ha già detto tutto? Oggi, da oggi in avanti, dovremo aspettarci volatilità, un po' di fermento, un po' di nervosismo o una stabilizzazione da qui, per esempio, alla fine dell'anno, intanto, dando una traiettoria abbastanza breve? Beh, facendo subito la massima chiarezza, siamo all'interno, comunque, siamo in un periodo storico in cui le politiche monetarie rimangono e saranno ancora prossimamente estremamente accomodanti. Per cui stiamo parlando appunto di quella che è la riduzione di un programma di quantitative easing, cioè di un programma straordinario di politica monetaria. Per cui si inizia, o meglio, si prosegue quello che è una riduzione di un meccanismo di incentivo. Ecco, per cui è uno dei primi passi che viene compiuto appunto dalla Banca Centrale in questa direzione. Per cui rimaniamo comunque in un contesto monetario, in una politica monetaria accomodante super e super espansiva. In primo luogo va detto questo. I rendimenti in questo momento storico sono particolarmente bassi, anche nel nostro paese. Basti pensare che, ad esempio, i rendimenti a 2 anni in Italia sono ancora negativi. Per cui è proprio i rendimenti sono particolarmente bassi su tutta la curva, i rendimenti dei titoli di Stato, proprio grazie a quelle che sono le politiche monetarie delle banche centrali che evidentemente stanno conseguendo quelli che sono i loro obiettivi, i loro effetti. Un altro obiettivo del banchiere centrale è quello di non portare volatilità sul mercato. Per cui effettivamente lui, Draghi, dovrà intervenire, dovrà in qualche modo ridurre queste politiche straordinariamente espansive, ma senza portare eccessiva volatilità sui mercati. Per cui rendimenti bassi, che nel medio periodo potranno rimanere ancora bassi e che in maniera marginale potranno via via ritornare su dei livelli magari più fisiologici. Quindi il primo effetto da monitorare proprio a oggi alle 14.30 durante lo speech quando di Draghi, quando inizia la conferenza stampa, sarà sì. L'andamento dei rendimenti. È chiaro che il mercato sarà estremamente sensibile ad ogni parola, ad ogni termine del suo discorso. Chissà come deve essere vivere con questa pressione addosso? Sapere che quello che dirai loro sono sarà strabituati, così però, importante. Però immagino, è incredibile. Non vorrei essere il ghostwriter del governatore in questa giornata. E poi il dollaro. Ecco, perché infatti ci chiede proprio un ascoltatore che ci ha scritto un SMS, vi ricordiamo potete continuare a scriverci intanto che ascoltate la nostra trasmissione, dice ma e allora cosa succede all'euro rispetto alle altre monete, insomma in particolare al dollaro? Abbiamo visto che l'euro si è apprezzato molto in questi mesi rispetto al dollaro, o forse il dollaro si è indebolito, vai a capire, come se è nato prima l'uovo o la gallina. Dove si sprigiona la forza, esatto. E allora chiede l'ascoltatore, premesso che non abbiamo la palla di vetro, però certo. Dottor De Gasperis, cosa possiamo immaginare? Ma anche qui è importante la stabilità valutaria, nel senso che un'estrema volatilità del mercato dei cambi indubbiamente mette in difficoltà quello che è un elemento di incertezza all'interno del commercio internazionale. Per cui la stabilità valutaria è estremamente importante. Poi, qualora effettivamente si dovesse verificare un eccessivo rafforzamento dell'euro contro dollaro, che cosa? Finirebbe col avere degli effetti negativi sull'inflazione e nello stesso tempo potrebbe avere anche delle ricadute negative sulla crescita economica. Certo. Per cui l'equilibrio, la stabilità, la riduzione al minimo della volatilità credo che oggi sia per Draghi l'obiettivo più importante del suo discorso, questa capacità di comunicare senza portare volatilità sul mercato. C'è chi teme, dottor De Gasperis, qualche ripercussione negativa sul debito pubblico italiano, in particolar modo dalla fine del QE, perché naturalmente Mario Draghi ha comprato i titoli di Stato anche del nostro paese per le scadenze per cui era autorizzato a farlo. Questo è uno scenario, secondo lei, da considerare? Fino a che punto, con quanta preoccupazione? Ma sicuramente il nostro paese presenta un debito pubblico particolarmente importante. Diciamo, ingombrante, direi. Ingombrante. E bisogna dire che il programma di quantitative easing ha rappresentato e rappresenta tuttora una finestra molto importante, se non decisiva, per la politica, per attuare tutta una serie di riforme che in qualche modo possano favorire la crescita economica del nostro paese. Quindi nel momento in cui parliamo di un debito pubblico ingombrante, la sua sostenibilità sicuramente è legata alla crescita economica del paese su cui gravita questo debito. Certo che però rendimenti negativi sui titoli di Stato generano ancora un grande punto interrogativo sulle nostre teste, no? Quindi certo, quantomeno da quel punto di vista si andrà verso la normalizzazione, secondo lei? Certo. Il BOT, che per 25 aste consecutive, quello con scadenza annuale, ha prodotto un rendimento negativo meno 0,33-36%, qualcosa del genere, è una condizione che probabilmente non è il caso che si continui a vedere. Certamente. Diciamo che è una situazione estremamente straordinaria, con gradualità appunto si potrà tornare in un contesto di normalità. Sicuramente diciamo che il programma di quantitative easing per molti versi ha allontanato i rendimenti dall'esprimere il vero livello di rischiosità espresso dai titoli sottostanti. Mm-hmm. Ovviamente gli ascoltatori si preoccupano di chiederci: beh, ma allora insomma, su che tipo di prodotti finanziari dobbiamo posizionarci? Fate tutte queste considerazioni. Allora, chiaro che non è il nostro ruolo quello di indicare delle azioni o delle obbligazioni, però stando invece sulle macro aree, ad esempio le obbligazioni sono in questo momento più promettenti, meno promettenti, a seconda di come si svolgerà questa decisione, certo, della Banca Centrale Europea. Il mercato azionario, abbiamo detto, ci aspettiamo che possa esserci un po' di volatilità, un po' di contraccolpo, anche se lei ci ha spiegato, dottor De Gasperis, in realtà lo scopo poi del governatore sarà quello di mantenere al minimo gli effetti di volatilità sui mercati azionari. E l'obbligazionario invece come può essere considerato, come può essere posizionato in questa fase? Nel momento in cui parliamo di investimenti, a me piace partire prima dai bisogni della persona. Quindi effettivamente in primo luogo bisogna partire da quelli che sono i suoi bisogni, il suo orizzonte temporale, la sua età, il suo progetto di vita, le sue aspirazioni. Quindi nel momento in cui si parte da un'analisi dei bisogni, si parte dall'orizzonte temporale, allora a questo punto andiamo a costruire un progetto. E all'interno di questo progetto entrano gli investimenti. Gli investimenti sono lo strumento per la realizzazione del progetto, il mezzo per raggiungere degli obiettivi. Prima bisogna capire dove bisogna arrivare. Se il mio è un progetto di carattere pensionistico, previdenziale, o se devo iniziare ad accantonare il denaro per il master di mio figlio. Quindi in primo luogo va fatta un'analisi di questo tipo. Poi cominciamo a parlare di strumenti di mercato, ma se non è chiaro, nel momento in cui non è chiaro l'obiettivo, cosa significa acquistare e comprare un titolo oggi? Comprare oggi per vendere domani non è una forma di investimento, è una forma di speculazione fino a se stessa. Nel momento in cui dietro la costruzione di un portafoglio, di un investimento, c'è un progetto di vita, allora dietro questo progetto effettivamente c'è proprio la realizzazione dell'investimento inteso come prospettiva. Veniamo alla risposta. Indubbiamente nel momento in cui all'interno di questa prospettiva e di un progetto di investimento, soprattutto con un orizzonte ampio, allora a questo punto l'obiettivo dell'investimento andando sui mercati finanziari qual è? È quello di andare a catturare in questo momento storico la crescita economica in atto. Che cosa ci ha detto il Fondo Monetario Internazionale? Il Fondo Monetario ha detto che a livello mondiale il mondo crescerà quest'anno del 3,6%, lo scorso anno è cresciuto del 3,2%, il prossimo del 3,7%. Abbiamo detto poco fa che nell'eurozona è in atto una crescita economica estremamente importante. Abbiamo detto che nel nostro paese c'è un'accelerazione straordinaria della crescita. E quando si parla di crescita stiamo parlando di utili societari. Quando parliamo di utili societari parliamo della capacità delle aziende di esprimere il proprio valore all'interno delle quotazioni. Quindi in questo particolare momento storico mi piace costruire un portafoglio indubbiamente con una netta preferenza, laddove possibile, appunto sugli investimenti azionari, andare a catturare la crescita economica e l'accelerazione in atto soprattutto all'interno dell'eurozona e perché no anche all'interno del nostro paese. Vediamo come vi sia una situazione in miglioramento anche ad esempio in Giappone, come vi sia stata una crescita importante anche negli stessi paesi emergenti. Certo. Mercato obbligazionario, che cosa abbiamo detto? Rendimenti bassi, negativi, per cui abbastanza insoddisfacenti, e soprattutto che sono destinati ad un lento, graduale rialzo. Per cui, in qualche modo, quello che nel mio gergo vi chiedo scusa, ridurre fortemente il rischio di tasso, magari all'interno del mercato obbligazionario, attraverso una altissima diversificazione del portafoglio, andare a preferire il rischio di credito al rischio di tasso, per cui portafogli con duration estremamente contenuta, andando alla ricerca di spread di credito. Quindi sicuramente in questo contesto preferire i mercati azionari e all'interno di portafogli certamente altamente diversificati. Ha lasciato questo... fuori? Sì, no, ma scusami. No, dicevo questo sempre con la massima cautela, cioè certo. Ricordiamo, lei usa questa parola che sempre ricorre qui a Investire Informati, diversificazione. Infatti. Non mettiamo mai le uova, tutte le uova nello stesso paniere, come si dice. In questa diversificazione, dottor De Gasperis, questa riflessione ce la lasciamo per dopo la pausa, ha lasciato fuori il discorso degli Stati Uniti, naturalmente, perché vivono invece una condizione di maturità dell'andamento economico. La borsa lo esprime chiaramente, per cui lì sì, tutto euforico, tutto bello, tutto a posto, tutto in crescita, disoccupazione molto bassa, ma adesso è il momento di porci e posizionarci in quest'area con un po' di cautela. Magari non succederà nulla, magari ancora continueranno a marciare come dei treni per altri 2 o 3 anni. Detto questo, i numeri ci dicono che comunque in quell'area un pochino di attenzione bisogna farla. Detto ciò, poi queste considerazioni le lascio al dottor De Gasperis, io mi tengo adesso il mio. Adesso ci dobbiamo fermare perché potete continuare a scriverci, mi raccomando, scriveteci 80024 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 se volete mandarci sms e whatsapp, ma adesso, cara Debora, le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... di denari. If I were a rich man, I have a dividum. All day long I dividum. Se fossi ricco, no, vabbè, noi siamo ricchi di simpatia. Siamo ricchi dentro, diciamo così, Deborah. Ma anche fuori siamo carini. Senti un po', ma tra l'altro tutto questo quantitative easing del quale abbiamo parlato, che è stata un'operazione di portata storica e con la quale abbiamo ossessionato i nostri ascoltatori, perché tutto quello che fa Mario Draghi per noi è veramente la preghiera quotidiana. Ma ti ricordi quando è iniziato? Sì, me lo ricordo bene, perché era un lunedì 9 marzo del 2015. Tra l'altro era stato lungamente dibattuto, il dottor De Gasperi se lo ricorda molto bene quel periodo in cui facciamo anche noi, perché già gli statunitensi lo facevano, facciamo anche noi il quantitative easing, insomma diamo uno stimolo per così dire artificiale all'economia per farla ripartire, o non lo facciamo? Lo facciamo o non lo facciamo? I mesi passavano, esatto. E non succedeva, diciamo, niente. E lui l'aveva anticipato il... Ah, questo non me lo ricordo. Ma che ci interroga? 7 luglio del 2012. Ah, caspita. Quindi whatever it takes. Ci abbiamo pensato a lungo. Quel giorno non ce lo dimenticheremo mai più. Io ero davanti ai nostri terminali per fare la borsa. C'era l'euro che volava da... Non vi dico in che... che grafico che ci rappresentava quel giorno. Comunque, finalmente, dopo tanto dibattere, tanto tormento e dilemma, esatto. Anche un po' amletico forse, il 9 di marzo del 2015 partì certo. Il primo acquisto. Non ricordo se erano 60 o 80 miliardi, mi pare fosse una cifra inferiore. Partimmo con una cifra inferiore, poi lo implementarono, poi esatto, esatto, e adesso riduciamo di nuovo. Va bene, adesso abbiamo fatto un po' di storia. Bravo, storia recente. Tra l'altro adesso è il caso anche di dire, anche se non sono tutti d'accordo, che finalmente si ritirano i remi in barca, perché comunque il sottostante sono delle buone notizie economiche, però al mercato la liquidità in circolazione piace, perché ovviamente liquidità a bassissimo costo, per cui detto questo, questi sono già stimolo favoloso, esatto, sofisticazioni finanziarie che lasciamo da parte adesso, perché diamo spazio anche ai nostri amici ascoltatori, perché c'è un osservatorio che ce li racconta che tipo di attitudine hanno nei confronti dell'investimento e del risparmio. È un osservatorio un po', come dire, geograficamente parlando, limitato, che però ci racconta molte cose interessanti in un frangente molto interessante per l'Italia, in cui si parla tanto di educazione finanziaria. E Mauro, ricordiamo agli ascoltatori che noi lunedì abbiamo una puntata speciale, perché viene a trovarci qui in studio Anna Maria Lusardi, che è presidente del Comitato per l'Educazione Finanziaria in Italia, nato proprio quest'anno, che sta decollando con tante iniziative interessanti. E noi sappiamo che siamo debolucci, infatti ce lo confermerà Carlo Piarulli, che abbiamo in linea. Buongiorno Piarulli. Buongiorno a voi. Piarulli è presidente di Adiconsum Lombardia, e hanno Adiconsum, insieme a Federconsumatori, ha fatto questa indagine molto interessante su un campione ristretto di risparmiatori, cioè quelli lombardi. Hanno preso un campione solo dei lombardi, questo non perché fossero particolarmente così sciovinisti, ma perché volevano avere un campione molto molto circoscritto, anche di un campione di popolazione rappresentativo di una scolarità un pochino più elevata di quella che si può ritrovare nel campione nazionale, e anche con una, diciamolo, disponibilità economica superiore. E cosa emerge? Allora, siamo sempre un po' debolucci anche qui in Lombardia, anche noi lombardi, il mio cognome d'altra parte lo tradisce, siamo anche noi lombardi debolucci come preparazione agli investimenti e all'educazione finanziaria, Piarulli? Allora, diciamo che da un punto di vista della scolarizzazione direi di no, nel senso che noi abbiamo voluto focalizzare su un target molto particolare tra i 35 e i 65 anni, comunque la Lombardia ha 10 milioni di abitanti, quindi comunque il 20% del paese, diciamo che è un'indagine abbastanza significativa. Nonostante il tasso di scolarizzazione relativamente elevato, abbiamo più del 35% di laureati, noi abbiamo dovuto evidenziare come vi è un forte scostamento tra quanto viene dichiarato, cioè l'importanza dell'attenzione verso la cosiddetta educazione finanziaria, quindi verso la conoscenza di prodotti, modalità di investire, eccetera, e quanto, ahimè, viene in realtà applicato, cioè come gli stessi risparmiatori, pur ammettendo l'importanza di alcune regole, poi alla fine si muovono in controtendenza, diciamo, sono incoerenti rispetto a quello che pensano. Piarulli, voi avete fatto una cosa molto interessante insieme a un comitato scientifico dove stavano professori universitari, professionisti dell'investimento e così via. Avete stilato un decalogo che tra l'altro sta sul vostro sito, no? Adiconsum Lombardia. Così lo facciamo circolare anche se ci ricorda l'indirizzo in diretta, così www.adiconsumlombardia.it. Benissimo, allora questo decalogo dell'investitore consapevole. Decalogo dell'investitore consapevole. Quando uno lo scorre dice: beh, vabbè, ma sicuramente tutti, io faccio così, tutti quanti quelli che conosco fanno così. Ad esempio, ci sono precetti del tipo: beh, se non ho capito, non firmo. In realtà, quello che voi avete verificato nel campione è che moltissime di queste regole sono poi non rispettate nella prassi, è quello che ci stava dicendo. Esatto, e l'esempio che lei ha portato poc'anzi è proprio l'esempio più eclatante, e cioè con uno scostamento di 14 punti tra chi ritiene importante capire le cose e poi aver capito una certa proposta che viene fatta, e un 62% che dice: io non sempre applico questa regola. E quindi, insomma, c'è comunque uno scostamento importante, ma non solo. Vorrei ricollegarmi a quanto esprimeva prima il dottor De Gasperi, cioè sull'importanza di dichiarare gli obiettivi e l'importanza di investire rispettando una pianificazione temporale coerente. Cioè, su questi due pilastri che appunto ha citato anche il dottor De Gasperi poc'anzi, noi siamo, cioè il risparmiatore medio lombardo, o meglio in quel target, è molto incoerente. Cioè dichiara di rispettare, che è importante rispettare gli obiettivi, ma un bel 41% non li rispetta. Un approccio ancora un po', adesso il termine è brutto, però questo va utilizzato, superficiale all'investimento, verrebbe da dire. Esatto, leggero. C'è sempre il solito pudore a parlare di soldi al consulente finanziario, si dicono sempre mezze verità, per cui insomma questo comporta naturalmente tante ricadute e altri problemi. Grazie a Carlo Piarulli per essere stato con noi. L'aspettiamo grazie presto di nuovo con altri osservatori interessanti. Dottor De Gasperis, partiamo proprio da queste ultime considerazioni. Persiste l'atteggiamento nella ricerca del rendimento da parte del risparmiatore medio prima che del darsi un obiettivo, ma come un obiettivo di investimento. Come si correggono queste problematiche? Che sono proprio, sembra, connaturate con noi, nate. Sì, perché poi uno alla fine sa, dottor De Gasperis, vuole solo il consiglio così, a breve. Esatto. Mi dica quanto mi dai, esatto. Quanto sì. mi dai di rendimento. Sì, sì, io quanto ce l'ho l'obiettivo di investimento, però quanto mi rende quello che mi proponi, ecco. Certo. E invece nel decalogo, tra l'altro, loro dicono, uno dei punti è chiedere quanto mi costerebbe se, non so, uscissi prima di quanto avevamo preventivato, se avessi bisogno improvvisamente di quel denaro. Certo. Insomma, considerazioni di pianificazione che sono determinanti, ce lo diceva anche lei prima. Certo, cioè spesso lo notiamo tutti, le persone sono più interessate al mezzo piuttosto che all'obiettivo. E, ad esempio, voglio mettere in risalto un altro aspetto. Nelle fasi delle crisi, nelle fasi di crisi di mercato, le persone maggiormente disorientate sono proprio quelle che non hanno ben definito gli obiettivi. Nel momento in cui la persona ha ben definito i propri obiettivi e ha creato un piano strategico e tattico dei propri investimenti, a quel punto non può temere la crisi dei mercati. Quindi, se l'investimento è ben costruito e coerente, è un po' quando ci si pone davanti al consulente finanziario, è come andare un po' dal medico. Bisogna esprimere tutti i sintomi della propria malattia. Quindi bisogna aprirsi in maniera completa perché la diagnosi e le soluzioni possano essere veramente incisive e complete. Se invece le informazioni sono limitate, allora a questo punto la diagnosi anche potrebbe essere errata. Potrebbe essere limitato, circoscritto. Io l'affermo perché abbiamo innanzitutto un obbligo, perché oggi è giovedì, investire informati, e allora c'è il domandone a questo punto, certo, cara Debora. Facciamolo, sigla. Non solo a chi piace lanciare il traffico, ma anche lanciare la sigla del domandone. Mi piace tantissimo. Allora vogliamo sapere quando è partito il quantitative easing della Banca Centrale Europea. Non diamo le varie ipotesi perché l'abbiamo detto poco fa, per cui siamo stati più aiutino di così. Abbiamo dato l'aiutone. Chiamateci 800 24 0024, ricchi premi e cotillon. E adesso traffico. Di denari. Dai, rifacciamola, rinfreschiamo subito la memoria ai nostri ascoltatori. Il domandone di oggi. Allora, vogliamo sapere quando è partito, in che data vogliamo, il giorno, mese, anno in cui è partito il quantitative easing della Banca Centrale Europea. Ma che ti viene bene, una volta tanto ti faccio fare Corrado, che io adoravo. Vabbè, mi devo esercitare però, Debora, non così a freddo non riesco. Allora, rispondeteci all'800 24 0024, noi preferiamo sentire dalla vostra viva voce appunto la risposta al nostro domandone. C'è a Giovanni. Proposito di domande, esatto. Pronto? Sì. Sì, pronto. La risposta, buongiorno. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, la risposta è 2012. Ma si stanno divertendo. Sì, sì, Peter si sta divertendo un sacco. Giovanni, però lei è simpatico, qualche cosa da mandarle lo troviamo ugualmente, guardi. Certamente, vediamo se qualche altro ascoltatore invece si collega rapidissimamente con la risposta giusta. Allora, adesso sentiremo. Intanto, dottor De Gasperis, se torniamo con lei, avevamo lasciato in sospeso la questione americana prima, sì, con queste borse che presentano un grafico in questo momento verticale, e quindi insomma temiamo che prima o poi qualcuno si stanchi e cominci ad innescare qualche notizia, una correzione per il mercato statunitense, e sappiamo che quando comincia là ce lo portiamo un po' ovunque. Può accadere, può non accadere, potrebbe arrivare una correzione piccolina e magari gli operatori decidono di continuare a stare sul mercato americano perché gode di ottima salute. Detto questo, la sua idea su quella situazione lì specifica qual è? Perché so che voi operatori dite che comunque una porzione di America nel nostro portafoglio ce la dobbiamo tenere sempre. Vabbè, cominciamo subito col dire che siamo comunque in una fase di crescita importante negli Stati Uniti, quindi abbiamo una crescita del 2,2-2,3%, quindi è una crescita economica importante che in ogni caso va catturata. Poi abbiamo parlato di diversificazione, quindi l'investimento è un must, la diversificazione. Poi spetterà eventualmente all'operatore professionale andare a sovrappesare, sottopesare, fare degli accorgimenti di carattere tattico. Ma dobbiamo distinguere quello che abbiamo già detto prima fra quello che è l'obiettivo dell'investimento, ovvero la sua strategia, e quelle che possono essere le scelte tattiche di breve periodo dell'operatore professionale all'interno del prodotto finanziario. Se confondiamo i ruoli, se confondiamo fra quello che è il ruolo del risparmiatore, del consulente e nello stesso tempo dell'operatore professionale, quindi del gestore, rischiamo dei corticircuiti estremamente pericolosi. Quindi il risparmiatore e il suo consulente dovranno perseguire la massima diversificazione. Quindi il mercato statunitense, il dollaro, sono comunque degli asset che debbono essere presenti, certo, all'interno di un portafoglio. Tra l'altro, una curiosità, dottor Riaspes, perché questa mi ricordo che ce l'avevano anche molti ascoltatori quando avevamo questo approccio nell'indicare un investimento sul mercato americano. Avere il dollaro significa avere dei dollari dopo un viaggio negli Stati Uniti in casa, o significa avere una sottoscrizione di treasury, di titoli di Stato americani? Significa in generale avere investimenti in dollari, cioè quando noi parliamo di investimenti in dollari significa avere degli investimenti magari in azioni statunitensi oppure in titoli di Stato. Quindi a 360 gradi. Cioè in generale stare sul dollaro. Tra l'altro, appunto, ci diceva Deborah pochi minuti fa nell'aggiornamento sui mercati, di nuovo c'è stato un apprezzamento dell'1,18 dell'euro sul dollaro. Insomma, la volatilità è fisiologica. L'abbiamo detto che oggi... Soprattutto sul mercato valutario. Mi sembra di cogliere una sorta di consiglio non espresso, che è quello: tenete i nervi saldi. Certo. Qualsiasi cosa dica Draghi oggi, anche se più o meno sappiamo cosa dirà tra pochissime ore, ci dobbiamo aspettare un pochino di scossoni sui mercati, ma non c'è da preoccuparsi se ci siamo posizionati in modo diversificato, appunto, e non dovremmo temere dei contraccolpi troppo forti. Questa sembra essere la tendenza un po' di tutti voi che vi occupate professionalmente degli investimenti e dei risparmi. È così, De Gasperis? Sì, è esattamente così, nel senso che il miglior modo per combattere la volatilità è proprio quello di preferire la massima diversificazione. E all'interno della diversificazione poi affidarsi ad un consulente da un lato e ad un gestore professionale dall'altro. Quindi in realtà l'investimento è un lavoro di team, è un lavoro di una equipe, al pari di qualsiasi altro lavoro svolto professionalmente. Certo. Allora, abbiamo 2 minuti di tempo, ma un'ultima riflessione, accontentando un ascoltatore che ci scrive, la vorrei fare per coloro che continuano ad essere molto affezionati all'utilizzo istantaneo del proprio denaro risparmiato. Ci sono ancora molte persone che accantonano il proprio risparmio in strumenti di liquidità a brevissimo termine, nella fattispecie il conto di deposito. In passato, quando le banche non facevano raccolta sul mercato interbancario, per fare raccolta dovevano chiamare a raccolta i risparmiatori e davano tassi di interesse piuttosto elevati su questi strumenti. Oggi si sono notevolmente ridimensionati, ma un ascoltatore chiede che alternativa c'è al conto di deposito se io voglio assolutamente quello. Beh, a questo punto sono io che faccio domande a questo risparmiatore e quindi gli chiedo magari se ha un piano pensionistico. Sta realizzando un risparmio per andare ad integrare la propria pensione? Se hai un figlio, sta creando un piano di risparmio per consentire ai propri figli la frequenza dell'università, di un campus, di un master? Cioè, tutto il suo risparmio è lì oppure c'è solo una piccola quota nel conto di deposito? Le esigenze di natura previdenziale sono coperte o non sono coperte? Le esigenze di natura assicurativa sono coperte o non sono coperte? Partiamo dagli obiettivi, non partiamo dallo strumento. Tutto quel denaro che è sul conto di deposito, ma servirà veramente? Domani? Ci facciamo un'altra trasmissione con lei, certo. Dottor De Gasperis. Intanto sentiamo se la risposta al domandone ce l'ha Luca da Pisa. Buongiorno. Buongiorno, la risposta, Luca. Allora, 9 marzo 2015. Eccola risposta là. Esatta. Luca ha studiato, ma in realtà molti ascoltatori. Luca ha ascoltato. Esatto, molti bravi, ci hanno scritto. Bravi. Non possiamo ovviamente premiarvi tutti. Vorremmo però farlo, credeteci, ma davvero per oggi abbiamo finito. State collegati, state su Radio 24, sul sito di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, perché insomma tra le 2:30 e le 3 qui si capisce cosa succede. Esatto. È la giornatona. Siamo del tutti in tensione. Andiamo a prenderci una camomilla nell'attesa, dottor De Gasperis.